24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:23 minuti. Allora, oggi voglio salutare, iniziamo a raccontare da qui questa storia cittadina, Luca Gibillini, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Lei a voi. Consigliere comunale a Milano di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Nichi Vendola. Senta, c'è una piazza anche poco centrale, molto centrale, poco periferica volevo dire, molto centrale, c'è una stazione anche a Milano, Cadorna, intitolata al generale Cadorna, che lei vorrebbe cambiare, perché? Ma ieri era il 24 ottobre, è il 94esimo anniversario, ieri il 94esimo anniversario della disfatta di Caporetto. Sì, quella dove il generale Cadorna era al comando. Comandava le truppe con un grido, le uniche munizioni che non mi mancano sono gli uomini. Insomma, io penso che Cadorna sia una delle porte, dei biglietti da visita, insomma, della città di Milano, è una porta d'ingresso, una porta d'uscita, è una delle principali piazze riconosciute. Penso che non sia bello che una delle piazze così importanti sia rappresentata da un uomo che aveva manifesto spesso della vita umana, che ha portato alla disfatta anche militare, non manca. Era un generale, la prima guerra mondiale, cioè parliamo di un secolo fa, quindi tecniche di guerra che purtroppo erano quelle, erano ben diverse da quelle attuali, insomma. Ma insomma, diciamo che lui fu il propugnatore di una tecnica di guerra, però non è tanto le tecniche di guerra, insomma. Ho studiato storia, insomma, a me sempre quando prendevo il metro da Piazzale Cadorna mi rimbombavano le parole che lui le dava fastidio. In Parlamento lui disse: non sono io che ho perso Caporetto, è la viltà degli italiani che ha perso Caporetto. Insomma, brutto. Insomma, non le piace Piazzale Cadorna, ecco, le dà fastidio questo Piazzale Cadorna, le rimbombano queste parole di lui che mandava. In realtà non mi dà fastidio, però penso che Milano meriti dei simboli nei luoghi centrali della sua Milano, che parlino di un altro spirito, di un altro animo. Lei infatti ha proposto come alternativa, se volete c'è già l'alternativa, Piazza Vittorio Arrigoni, cioè il pacifista che fu ucciso a Gaza. In realtà la mia proposta è quella di aprire una consultazione tra i cittadini, insomma, una piazza così centrale. Ho depositato una mozione che chiede ai cittadini di esprimersi. Io poi, quando mi hanno chiesto secondo me chi poteva essere, il nome che mi è venuto in mente è quello di Vittorio Arrigoni, perché insomma, se non altro perché simbolicamente rappresenta una cosa molto diversa dal militarismo espresso dalla vita umana. Le piacerebbe più così, stazione Arrigoni invece che stazione Cadorna, le suona meglio? Stazione, diciamo che può rappresentare un po' di più il nuovo spirito di Milano. Senta, qualcuno può dire, ma davvero è chiaro che non è che già immagino le critiche, ma pensate a queste cose, non è che in una città si pensa a questo in consiglio comunale, però effettivamente la domanda è da dire, ma non c'è altro a cui pensare, certo, per cambiare il nome di una piazza? Mi chiedete se è una priorità? Sicuramente no, però io penso che in questo periodo sia una priorità provare a ragionare anche attraverso queste scuse di guerra e di pace. Cioè, in un momento di crisi profonda, come anche economica, in cui noi versiamo, l'idea che ogni due anni il governo italiano spende 27 miliardi di euro per missioni di pace, di cui alcune legittime e altre possiamo mettere in discussione, ma soprattutto quasi il 4% del PIL nazionale investito in armamenti e in sistemi di difesa. Io penso che nel momento in cui tutte le voci, tutti i capitoli, soprattutto quello degli enti locali, e qui arriviamo anche a Milano, che ricevono dei tagli sostanziali e che rischiano di dover mettere in discussione gli stessi servizi essenziali al cittadino, l'unica voce di capitolo in cui il governo non taglia mai è questo, quello degli armamenti. Quindi il suo modo è un modo per porre anche questo problema. Senta, lei qualche giorno fa era entrato ancora nel centro della polemica, Libero aveva dedicato l'apertura alla sua proposta, perché lei voleva offrire la possibilità di stipulare gli abbonamenti per il trasporto pubblico a Milano anche senza presentare un documento di identità. Subito sono insorti a dire: eccolo là, vuole favorire gli immigrati clandestini, irregolari, che invece di essere espulsi la giunta Pisapia li vuole, attraverso la proposta di un consigliere di SEL, insomma, legittimare, ecco, con l'abbonamento addirittura gratuito. Sì, adesso al di là della bassa macelleria della comunicazione politica, perché Libero ha fatto veramente macelleria, insomma la mia proposta era abbastanza precisa. Dentro un quadro in cui uno dei dati che emergono è quello dell'evasione, quindi molti che non pagano il biglietto. Sì. Noi siamo interrogati sul fatto che, insomma, c'è tutta una fascia della cittadinanza che non paga il biglietto, anche perché sarebbe veramente molto molto caro il biglietto in questa fase per loro. Beh, l'ha aumentato il comune, insomma. Sì, certo. E infatti sono penalizzati effettivamente da questi biglietti singoli, soprattutto coloro che non hanno la possibilità di fare gli abbonamenti, che sono rimasti invadiati, sono gli abbonamenti più economici più o meno d'Europa. E quindi la cosa che noi ci siamo interrogati è che c'è tutta una fascia di cittadini che sono, per esempio, in attesa dei documenti, questa brutta legge Bossi-Fini, una legge che lascia in attesa 6-8 mesi, insomma, quelle persone in attesa di documenti, chi ha fatto la richiesta di status di rifugiato politico, chi magari non ha documenti perché è irregolare pur essendo comunitario, intendo alcune cittadini. No, chi è in questa situazione può ottenere l'abbonamento. Esatto, oggi non può perché c'è un regolamento che dice semplicemente che... Però se poi una di queste persone... La sua domanda non viene accolta e diventa automaticamente irregolare, che si fa? Magari nel frattempo gli si è dato un abbonamento agevolato e paradossalmente andrebbe espulso per la legge. Cioè è un... Vabbè, io posso solo dire che almeno ha avuto l'opportunità di pagare, almeno l'ATM ha portato un po' di soldi, ha portato un po' di... Prima dell'espulsione ha contribuito un po' anche lui. Prima dell'espulsione ha contribuito un po' alla classe. Devo dire. Beh, penso che però sia un diritto di... sia un bel segnale, insomma, di inclusione tra cui tutti gli irregolari. Poi quello che verrà, insomma, se sono espulsi o regolarizzati. Va bene, in attesa di sapere se i cittadini milanesi voteranno sul referendum per cambiare Piazzale Cadorna, la ringrazio e la saluto. Buona giornata. Grazie a voi. A Luca Gibillini, consigliere comunale a Milano di Sinistra, Ecologia e Libertà. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi ci sono dei parlamentari che fanno anche il sindaco di città sopra i 20.000 abitanti, ma c'è un cittadino di Catania che ha deciso di fare guerra a questa legge bizzarra e l'ha avuta vinta arrivando fino alla Corte Costituzionale. Sarà con noi tra poco insieme a due sindaci con doppi incarichi a spiegarci che succede ora. 24 mattino. Allora, le 8:36 minuti, eccoci qua. C'è una legge in Italia che prevede questo: chi è sindaco di una città sopra i 20.000 abitanti non può diventare parlamentare. È una legge del 1953, ma è una legge anche che prevede un percorso inverso molto bizzarro. Chi invece è prima parlamentare, cioè basta fare il percorso giusto, sei parlamentare, puoi diventare e essere eletto sindaco di una città sopra i 20.000 abitanti. Quindi chi è sindaco non può fare il parlamentare, ma se basta diventare prima parlamentare poi si può candidarsi, ci si può candidare a sindaco e avere dunque un doppio incarico. Ma c'è un cittadino di Catania che saluto, Salvatore Battaglia, buongiorno. Buongiorno. I cittadini, i latini direbbero nomen omen, Battaglia ha battagliato ed è arrivato fino alla Corte Costituzionale che le ha dato ragione con una sentenza per la quale si decide che cosa, Battaglia? Che ora basta, non si può più, questi sindaci che sono anche parlamentari devono scegliere. Assolutamente sì, per cui anche il sindaco della mia città, che è stato praticamente il principio per cui io mi ho ispirato a fare questo ricorso, o per cui io ho fatto questo ricorso, perché il sindaco più volte in questi ultimi due anni aveva enunciato che si sarebbe dedicato alla città e che sarebbe rimasto qui, in realtà invece non l'ha fatto, ha continuato Perché lei è di Catania, dove c'è un onorevole, Raffaele Stancarelli, che è senatore e sindaco di Catania. E lei questa cosa non andava giù. Senta, lei che lavoro fa? Lavoro in banca. Lavoro in banca. Età? La possiamo dire che età? 47 anni, sono convivo... ho una normale vita lavorativa e poi mi sono occupato di politica fino all'anno scorso, quando per molti anni, 5-6 anni, ho fatto anche attività del segretario del locale circo PDS-DS e poi adesso PD. Poi l'anno scorso, considerato che ho 47 anni, ho dato la mano su segnalazione di Bersani, tutto il gruppo dirigente che diceva di rinnovare, io mi sono dimesso. Sei dimesso. È stato eletto un ragazzo più giovane di me. Insomma, ha voluto fare questa battaglia, ora da cittadino, fare, uomo che si è occupato di politica, ma ora da semplice cittadino, elettore, a dire basta questi sindaci che hanno un doppio incarico. Guardi, noi le abbiamo chiamato due sindaci, così tanto lei è pronto a battagliare, per l'appunto. Li voglio salutare, due sindaci che hanno il doppio incarico, e ora ci spiegheranno come si uscirà da questa situazione. Il sindaco di Viterbo, Giulio Marini, buongiorno, del Popolo della Libertà. Buongiorno a tutti quanti voi e anche al signor Battaglia. Eccoci qua. Saluto anche invece un conterraneo del signor Battaglia, l'onorevole e sindaco di Mazara del Vallo, del Popolo della Libertà, Nicolò Cristaldi. Onorevole sindaco, buongiorno Cristaldi. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, comincerei da lei intanto. Un siciliano come lei, Battaglia, ha fatto questa, insomma, lotta. Adesso voglio uscire da questo gioco di parole, battaglia. Cristaldi, lei che fa adesso? Che faccio? Intanto prendo atto della sentenza della Corte Costituzionale, ma evidentemente questa sentenza da sola non è sufficiente a far prendere una decisione, perché la sentenza non è affatto abrogativa delle leggi, si dice tecnicamente essere una sentenza additiva, cioè a dire è emerso che c'è una incongruenza e quindi c'è una obbligatorietà del legislatore di intervenire sulla questione. Vabbè, questo insomma sono tecnicismi, cioè non le impongono di scegliere, questo mi sembra di capire. Però che succede? In realtà quando la sentenza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale ci saranno poi 10 giorni per il sindaco di Catania, per il quale il ricorso è stato fatto, per scegliere. La situazione del sindaco di Catania è diversa, perché c'è stato un ricorso presentato entro i termini e quindi ha una procedura diversa. Nel mio caso, e credo nel caso di tutti gli altri che si trovano nella stessa condizione, non essendoci un ricorso, non c'è un obbligo, obbligatorietà di decisione. Vabbè, ma onorevole, nel momento in cui la Corte Costituzionale, il nostro massimo organo giuridico, esprime una linea di principio a dire cari sindaci o cari onorevoli, o fate una cosa o fate l'altra, non ci no, si pone di fronte. La Corte Costituzionale non dice questo e non ha detto questo. La Corte Costituzionale ha fatto notare una incongruenza, c'è una disparità, una sorta di privilegio, si dice di fatto nella sostanza nella Corte Costituzionale, che prevede appunto che il deputato può candidarsi a sindaco senza dimettersi, mentre il sindaco è costretto a dimettersi 6 mesi prima. Certo. E mi sembra anche giusta, dico con franchezza, nella mia lunga attività politica anche a livello regionale ho tentato più volte di fare delle norme per eliminare questa incongruenza. Ma lei come la sanerebbe questa incongruenza? Dando l'impossibilità di fare due cariche oppure permettendo ai sindaci di fare i parlamentari anche? Secondo me la democrazia è in mano al popolo e deve essere il popolo a stabilire se una persona può fare entrambi gli incarichi. Perfetto. E permetto dire che questo avviene soltanto in Italia. In Francia Chirac ha potuto essere capo del governo e sindaco di Parigi senza nessuno scandalo. E sono la sua posizione sono è chiarissima. Cioè, lei, secondo lei si possono mantenere? Beh, aspetti, mi faccia sentire anche, andiamo in Lazio, voglio sentire l'onorevole e sindaco di Viterbo Marini. Lei che pensa, sindaco? Si pone di fronte a un problema? Lei, non mi ha, quando sono stato contattato, non è che sapevo con chi avevo anche dal punto di vista della discussione a che fare, quindi ovviamente concordo la posizione con il collega, perché naturalmente quando nel 2008 io mi sono candidato a sindaco, i cittadini sapevano che ero anche nello stesso momento candidato a parlamentare e ho raggiunto al primo turno il 49,16, al secondo turno il 62,3%, quindi il cittadino era conscio di quello che stava votando. Ma dal punto di vista della legittimità nessuno contesta nulla, sindaco, cioè nessuno dice che è stata fatta una cosa contro la legge, si tratta di capire se sia opportuno a questo punto. Noi ci siamo svegliati nel 2011 e abbiamo la Corte Costituzionale ha in maniera retroattiva ha fatto una puntualizzazione su una legge che ha 58 anni, quindi naturalmente io credo che già il legislatore è intervenuto con una modifica che abbiamo votato tutti quanti, la maggioranza ha votato tutti quanti con la manovra, quindi c'è una appunto una, il legislatore ha legiferato e ha detto che a fine mandato non ci sarà più la possibilità di... Ah, quindi aspettiamo, diciamo, la scadenza naturale. Ma io credo che sia normale, credo che in un paese normale, se la Corte puntualizza, sia normale che gli effetti avvengano alla fine del mandato. Sentiamo, nel caso Stancanelli, come battaglia, ci sono 10 giorni, cosa succede ora al sindaco di Catania? Infatti io non mi appassionano tanto le discussioni che hanno fatto i due sindaci, che giustamente se difendono la propria posizione ed è giusto anche che sia così. Personalmente non ho niente né con loro ma neanche con il sindaco Stancanelli, però una buona politica penso che in un piccolo centro quale quello che sia Mazzara del Vallo, non mi ricordo il sindaco Cristaldi dov'è, di Mazzara, giusto, quindi diciamo che possono anche esserci questo tipo di particolarità, però in questa città stiamo parlando di piccoli centri rispetto a una grande città. Innanzitutto per quanto riguarda la prassi, mi pare che oggi l'avvocato mi sta raggiungendo qui, depositerà la sentenza e quindi probabilmente fra 20 giorni scatteranno il cosiddetto, come si dice, countdown per decidere, così l'abbiamo chiamato in termine, perché è anche giusto scherzarci su, non c'è motivo di irrigidirsi contro la politica, ma Catania non è la stessa cosa, né di Mazzara neanche di Viterbo, ci sono quasi 400.000 abitanti e fare il sindaco nel weekend non è semplice, è una città che è sotto gli occhi di tutti quello che accade in questa città, i quartieri, io sono di un quartiere periferico, il mio circolo del PD che io è abbastanza lontano dal centro storico, quindi la periferia è abbandonata a se stessa. Il sindaco spesso, per motivi anche dovuti a questo tipo di partecipazione, tutti questi voti di fiducia, non è che stiamo parlando di una normale amministrazione del Parlamento in cui praticamente si può anche stare nel proprio territorio, qui si sta parlando di quasi 55 voti di fiducia, tante persone che spesso non, tanti amministratori non possono fare bene gli amministratori perché devono fare i senatori, devono andare là a votare, le finanziarie, le manovre e tutto questo. Nel caso specifico di Stancanelli è questo che mi ha spinto a fare questo. Poi ci dirà magari quanto le è costato, un attimo, dopo le informazioni sul traffico, se volete anche intervenire 800 24 00 24. Allora, alle 8:47 minuti, vorrei sentire 800 24 00 24, ci ha chiamato Daniele da Roma. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Eccoci, dica. Guardi, no, io concordo assolutamente con la sentenza della Corte Costituzionale, credo che sia in questo momento immorale, non mi pronuncio, non posso assolutamente dire illegittimo, poter avere doppi incarichi pubblici, politici, di qualunque tipo. Anche illegittimo, perché questo non c'è nulla di illegittimo, la legge consente ai sindaci qui presenti di essere sindaci onorevoli. Più che altro perché vedo incompatibile la possibilità di essere ad una seduta parlamentare, già dove abbiamo un alto tasso di assenteismo, e poi ricoprire un incarico di sindaco o qualunque cosa, prendere parte in una seduta. Ah beh, sì, su questo non c'è dubbio, l'ubiquità ancora, onorevole Cristaldi, sindaco di Mazzara del Vallo, l'ubiquità ancora non le è stata donata, no? Però l'ubiquità purtroppo non ce l'ho, però questo intervento, che naturalmente fa parte di una opinione anche diffusa dovuta anche a una errata informazione, intanto diffido sempre dei giudizi morali, quando si dice che è immorale una situazione comincio a diffidare anche dell'interlocutore. Io credo che sia immorale sostenere che questa è una situazione immorale, perché io sono un parlamentare tra i più presenti alla Camera e tra i più presenti in Commissione, sono anche definito un buon sindaco, tanto che sono stato eletto con il 70% dei voti e da sondaggi che ho effettuato, se si votasse domani mattina supererei abbondantemente questo 70%. Bisogna anche tenere conto che il sindaco, che fa anche il deputato, fa il sindaco gratuitamente, quindi nel momento in cui non dovessi più essere sindaco e parlamentare al tempo stesso, ci sarebbe un aggravio della spesa pubblica perché per il comune costerebbe per il comune almeno 100-120 mila euro per quanto riguarda Mazara del Vallo ogni anno. Quindi si figuri, ho fatto per 10 anni il sindaco in altra città, a una media di 3.000 euro al mese come sindaco, in 10 anni ho fatto risparmiare qualcosa come 300 sì, quello euro che non capisco ai cittadini comune. È perché questo volere poi viene tradotto così, essere ancorati alla poltrona, capisce? Cioè volere per forza avere... Ma guardi, per forza, mica io sono un usurpatore, la gente... No, no, che usurpatore. No, vabbè, però lei sei candidato, sei andato dai cittadini a dire voglio essere il vostro sindaco. Se no, uno... io mi sono candidato, ho presentato il mio programma, il mio progetto, la gente ha condiviso il mio programma e il mio progetto, mi sta dando solidarietà, non capisco perché ci deve essere un organismo esterno che non mi pare sia il Papa che dà giudizi morali. No, certo, ma però se uno è già in Parlamento può dire faccio il parlamentare in maniera e faccio fare il sindaco a un altro. Ma perché deve essere questo se invece la gente sostiene che deve essere il contrario? Esperienze di fatto hanno portato alla mia elezione a sindaco della mia città, perché coloro che facevano i sindaci non erano parlamentari, evidentemente non sono stati graditi dalla gente. Sentiamo intanto... invece la gente ha dato alla mia funzione grande solidarietà e sostegno. Vorrei sentire anche Marco da Torino. Buongiorno Marco. Buongiorno Milan. Una brevissima considerazione. Premesso che ovviamente mi trovo d'accordo con quello che è stato detto dalla Corte Costituzionale, ovviamente fa piacere che vengano fuori queste sentenze. E premesso che dubito che alcun politico deciderà di scegliere tra uno dei due incarichi, è possibile estendere questa cosa e fare un ricorso in tutti i comuni che è stata fatta? Premesso che è ovvio, allora che... questo credo che farà l'avvocato Catagliotto che sta aiutando Salvatore Battaglia, no è così Battaglia, ma ha detto ieri l'avvocato che in tutte le città dove ci sono i sindaci coinvolti parleranno, si farà questo ricorso, no? Si dovrebbe fare questo ricorso. Catania chiaramente quando riguarda Catania vale il suo ricorso, quello che ha fatto lei. Sì, quello che abbiamo fatto al TAR. Il punto è che questa norma che mi diceva chiacchierando con Antonio, con Catagliotto, purtroppo per alcuni potrebbe anche non bastare il fatto di scegliere, perché per esempio se non c'è il ricorso... Sì, ci vorrebbe un ricorso nelle città, un cittadino che faccia un ricorso, che ne so, a Mazara del Vallo per il caso dell'onorevole Castaldi, a Viterbo per il caso del sindaco onorevole Marini, qui presenti, o nelle altre città, c'è a Brescia una situazione simile, sì, c'è a Pavia, il caso strano è che sono quasi tutti del centrodestra, questo è un caso, ma questo non è una cosa da evidenziare in questo... Però l'ha evidenziato. Il caso vuole che in alcuni comuni, per esempio, era già successo, per esempio Fassino mi pare che si sia dimesso. Fassino si è dimesso dal Parlamento, sì, essendo stato eletto sindaco di Torino. Questo è una questione che si potrebbe fare preventivamente. Però vorrei mi dica quanto ha speso lei. Quanto ha speso lei? No. E come no? Circa 6-7 mila euro. No? Ah beh, 6-7 mila, beh insomma una cifra, pensavo di più, però è una cifra consistente. Però mi lasci dire, onorevole, vorrei tornare un attimo al sindaco di Viterbo, onorevole Marini. Senta, onorevole, anche lei l'ubiquità non ce l'ha, però contesta questo fatto che bisogna essere per forza 24 ore al giorno in un posto per poter lavorare efficientemente? Io sono più fortunato dell'onorevole Cristaldi perché naturalmente sto... È più vicino. A 80 km da Roma, quindi... La mia vita è fatta di pendolarismo e di presenza sia in comune che al Parlamento, quindi ho la mia presenza del 97,24% di presenza alla Camera, c'ho una presenza assidua al Comune di Viterbo, non mi si chiede di fare il dipendente pubblico con il cartellino, lavoro quando posso sempre e quando non sono presente nell'amministrazione lavoro lo stesso perché riesco a fare tutte e due le cose, perché stiamo parlando di comportamenti e comportamenti. Io nella mia esperienza politica ho vinto tutte le elezioni da presidente della provincia, da sindaco, da parlamentare, ho vinto perché molto probabilmente i cittadini hanno avuto fiducia in me. Oggi c'è una corrente di pensiero, come diceva l'onorevole Cristaldi, noi facciamo risparmiare 100.000 euro di stipendio che non sono pochi, perché noi abbiamo votato manovre comprensive del bilancio dei comuni, non c'è stata incompatibilità, perché le abbiamo votate per il bene del paese. Qui oggi per il bene del paese si sta quisquigliando su queste cose che non sono il bene del paese, perché il buon senso significa risparmio. Se il comune di Viterbo risparmia 100.000 euro all'anno, questo va bene, ha avuto un risultato. E va se bene. I cittadini di Viterbo manifestano verso il sindaco ancora un ottimo principio di efficienza e di capacità, perché stiamo parlando di un comune tra i più dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista dei servizi. Ah, molto è stato chiarissimo. Sindaco, la ringrazio, così come da Salvatore Battaglia i nostri due sindaci onorevoli Giulio Marini e Nicolò Cristaldi. Grazie a tutti. Chiudo dando la linea a Oscar Giannino e ci troviamo domani alle 7:20.